Freddo e concentrato Danilo Di Luca col terzo posto consolida la maglia rosa, mentre il bielorusso Sisov, un'altra rivelazione del Team Columbia fabbrica di campioni come Cavendish e Boissonhagen, fa emergere un altro giovane straniero che va a tutto gas. Allegria certo, sperando comunque che la benzina, ci siamo capiti, sia regolare. Da Bergamo il giro arriva oggi a Milano, ma a differenza delle altre edizioni non finisce qui. Anzi qui, come direbbe Bartali, l'è tutto da rifare. Finora infatti, grazie o per colpa di un percorso che ha il suo snodo decisivo giovedì prossimo nella cronometro delle Cinque Terre, siamo solo agli assaggi. Assaggi che verranno spazzati via da questi 60 km di micidiali su e giù. I sopravvissuti poi se la giocheranno sugli Appennini, Monte Petrano, Blockhaus, Vesuvio. Bisognerà essere forti nella prova contro il tempo, ma anche agili e resistenti. Di Luca, finora il migliore, rischia di pagare la crono. Più chance in questo senso a Ivan Basso. Ma attenzione alla legione straniera, che ogni giorno si infittisce. Vero che zio Armstrong s'allena per il tour, ma dietro di lui cresce un gruppo agguerritissimo. L'altro americano Leipheimer, il russo Menchov, lo spagnolo Sastre, lo svedese Lovkist, compagno del bielorusso Sisov. Un giro globalizzato, quindi, anzi multietnico, che respingere alle frontiere non sarà facile, nemmeno con le motovedette di Maroni. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore.